Oppa, Bartoldetto, anche a ti qua, vediamo, e allora, vai o che? Vai sicuro e ti vai o che con che ciuccone lì, ah? Vai sicuro, ma allora, una barzelletta, vieni, fora. Sicuro, posso contare una bicicletta? E certo che me lo sia, vuoi mandarla a tutti i tabacconi che siete, io ascoltami, no? Guarda così, una volta, no, che era un uomo che era grande negoziatore e che aveva un mulo. Ma guarda, che ti dici che bel mucio, e una sera andati a bodega, a sabato sera, no? E gli ha fatto una grande una ciuccona, caro da Dio, e ti ho dato in casa il bodeghero, lo mai dell'agro, e che ha detto stasera mi appaghi, cioè sera là poi 2-3 la madrugata, e il bodeghero andava fuori che altri ancora là, cioè pissa di qua, pissa di là, noi va mia via, l'usciappa che ha detto, io che è venuto, sì, ciappa, e uno in cima del mulde che l'altro, gattrucca il pallone in cima ai muccio. E ora in dai casa per strada, c'ho pin pianeto, poi uno non so mia fino a quelle cose che acontecessero. E che l'altro quando arriva a casa, e il mulde ha toccato giusto col pupato cano, arriva a casa il mulde, guarda una scramussata, c'ho su per la portella, e a catena che fa per lui, no? Allora la vecchia ha detto, nene, per amor di Dio, lì va su, che guida che in colpo pala che ha fatto grande, no? Allora lui va su, c'ho ciappa il lampionetto, ciappa sulle mutandone bianche, le scinelle, e è andato su quando arriva a metà strada. Chi ha visto che mestieramento là che non era proprio suo pupà, lei torna indietro correndo e ha detto, mamma, per amore di Dio, lei va su di lì, che in colpo guida che il mulga ha negoziato il pupà. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh